E per finire, concedetemi poche parole sull'odierna ricorrenza del primo maggio. Ho detto ricorrenza, non festa, perché tutto sommato mi sembra incongruo ricordare con una festa una strage. E il primo maggio è stato istituito 105 anni fa dall'Associazione Internazionale dei Lavoratori in nome dei martiri di Chicago, i 5 operai anarchici legalmente accoppati dalla magistratura e dalle autorità della futura metropoli di Al Capone nel 1886. E anche se quell'episodio ormai è dimenticato, non mi sembra giusto neanche parlare di festa del lavoro, perché non so cosa ne pensiate voi, ma a mio avviso il lavoro non è cosa che valga la pena di festeggiare. Anche se non credete che ci sia stato imposto come punizione per i nostri peccati, secondo il racconto della Bibbia, Genesi 3,18, resta comunque un bel peso, qualcosa di cui faremmo tutti volentieri a meno. A livello teorico l'argomento, come credo sappiate, è molto controverso, ma tra tutti i classici del marxismo io continuo a preferire il diritto all'ozio di Paul Lafargue. E a costo di sembrarvi un po' causidico, non mi piace neanche parlare di festa dei lavoratori. Vedete, il concetto di lavoratore è un po' troppo onnicomprensivo per i miei gusti. Lavora chiunque presta la propria opera per realizzare un suo scopo e, scusate, a me piace discriminare gli scopi. Il nonno della nipote di cui parlavamo in apertura di trasmissione faticava a staccarsi dalla scrivania e conseguentemente amava farsi definire un grande lavoratore. Una volta, figuratevi, una volta si fece presentare in questi termini agli operai della Fiat dal senatore Agnelli, il nonno di quello attuale, naturalmente. È un episodio che risale alla fine degli anni 30, ne esiste un'impressionante documentazione cinematografica dell'Istituto Luce, e quei poveretti non potevano neanche manifestare il loro punto di vista su quella pretesa, come avrebbero senza dubbio desiderato fare, perché uno degli effetti del lavoro di quel turpe figura era stato quello di togliere a loro la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in pubblico. E lungi da me la volontà di fare indebiti paragoni, ma credo che anche l'onorevole Berlusconi sia solito vantare le proprie capacità di lavoro, e anche con l'onorevole Berlusconi io non vorrei avere proprio nulla da spartire nemmeno sul piano delle celebrazioni. In realtà i lavoratori chiamati a scendere in piazza il primo giorno di maggio erano una ben precisa porzione maggioritaria del grande esercito dei prestatori d'opera, quella di coloro che lavorano sotto padrone, che non spargono il sudore della propria fronte solo per mantenere se stessi, ma anche per mantenere gli altri. Oggi questa precisazione non è particolarmente di moda. Sono tutti convinti, a quanto sembra, che i veri protagonisti della vita economica e produttiva siano quelli che adesso si chiamano gli imprenditori e sono pronti a spargere parecchie lacrime sulle loro difficoltà vere o presunte. Certo che in un sistema capitalistico servono i capitali e senza i capitali l'economia non funziona, ma non dimentichiamo per favore che la ricchezza, cioè la disponibilità di mezzi di qualsiasi tipo, viene dalle braccia che dissodano la terra, che ne estraggono le materie prime, che le forgiano in manufatti, che i capitali non sono nient'altro che la ricchezza accumulata, cioè il risultato sanguinoso dell'opera preterita di centinaia di migliaia di lavoratori espropriati dal frutto delle proprie fatiche. Perché il capitale, in definitiva, non è una realtà data, non è qualcosa che cresce sugli alberi come i frutti nel giardino dell'Eden, anche se spesso giunge in mano a chi lo detiene senza nessuna fatica da parte sua. Nel capitale sono concentrati l'abilità, la professionalità, l'inventiva, la fatica, la sofferenza, il dolore di tutti coloro che, pur avendolo prodotto, non ne possono disporre. In questo senso il primo maggio dovrebbe essere la festa degli sfruttati. Ma spero siate d'accordo anche voi che lo sfruttamento non è una condizione che meriti di essere festeggiata, soprattutto oggi che, a quanto sembra, abbiamo tutti un padrone in più e corriamo il rischio di dover destinare chissà quanta parte dei nostri magri guadagni a risanare i debiti del nuovo super garantitissimo presidente del Consiglio. In queste circostanze c'è pochissimo da far festa. E tanto per non usare dei termini arcaici cui pochi credono e di cui pochi oramai hanno il coraggio di servirsi, termini tipo giornata di lotta, no? O simili, limitiamoci a dire limitiamoci a dire che la ricorrenza odierna rappresenta un utile promemoria. Non certo per gli sfruttatori, che sanno sempre benissimo da dove vengono le loro ricchezze e cosa devono fare per mantenerle, ma per tutti gli sfruttati, che non sempre ricordano che i veri protagonisti della storia sono esclusivamente loro.